Gianni. E beh, Gianni. Attento, Gianni. Lui era già qui. Hola, hola, c'è qualcuno, cambio. Cappalino, ci sei? Chi è avanti? Buonasera. Buonasera a lei, con chi abbiamo l'onore di parlare? Antonio so. Ah, c'è Antu, e beh, come mi ascolti, sono in barra mobile. Perfettamente bene. Ehi. Ai, Lucrezia. Ai, c'è Nannini. Ai, senti com'è. Come va? Molto bene. Ah, flippato. Senti che duro. Sembri un tossicodipendente. Senti che duro. Duro duro, eh. Il pelo, eh. Dove sei già? Dove sono? Dove? Giorgio! Via Bottego! Guarda! Mi è arrivata una fucilata! E beh! No, ma si è comportati lì, non è che... Forse è la zona che va bene, dai! Se va bene, ti sento benissimo qua! Un bolino, vabbè, bene, mi ascolti! Sono le antenne! A voi che ti ascolto bene! Ho bucato l'orecchio. E lui di fano. Insomma, c'è di tutti i mandroni, c'è lui che non sono cucucato, dai. Vai, già che Maria mi ha ricato a fare il pane, ma siamo messi. Oh, gli ha fatto una bella camminata, 2 ore di camminata a fare un po' di asparagi. Abbiamo fatto il tanto giusto per farci due pennette o la panna. Già l'ho visto il filmato su cosa, su Facebook. Che stavate trottando, che stavate cercando il cane, dove sono finiti il cane? Sono due cuccioli che abbiamo trovato lì, uno era da caccia, l'altro era un meticcio. Ce l'avete preso? No, sicuramente avevo un padrone. Che bella la femmina, il cane da caccia, che bella, occhialata. Era tutta carezzata, che bella che era. Magari sono fuggiti da qualche parte. È giovane anche, aveva avuto se non un anno quei cani. E due, un anno e mezzo, là. E io adesso me ne rientro a Domo Pac. E siamo qua. Ci mettiamo là allora. Vabbè, un attimino che mi sposto. Adesso sono buoni gli asparagi, un bel lontano c'è di andati. Via, ma la fatta. È la fine di gli asparagi. E pochi altro, guarda, ho detto una mangiatina, ma pochi, non sono tanti. Ma io penso dall'altro mese. Ci sono già, non qua però, perché dice che li stanno già facendo, però non so dopo. Nella zona della Gallura bisogna andare, non so farlo bene. Ma loro li mangiano, figlio. Cazzo se mi piacciono, perché li funzionano. A me mi piacciono anche molto, anche perché fanno bene gli asparagi. Sì, quello sì, come ogni cosa, non è che poi c'ha... Questa cantera di vivente di buccioli di vini, no? E come tutte le cose, ci vuole un po' e un po'. Caro, sei americana, tipo una volta alla settimana. Adesso come è il tempo, ci vado, li faccio. Poi li tagliamo. Lo so. Perché abbiamo sbagliato strada, siamo passati in mezzo alla vegetazione. Sì, burrone, molto, molto. E appunto, tu le hai toccato, ma gli ha detto, guarda che c'è un burrone attento. E lui era per farti giù, ieri. Perché ti doveva fregare, doveva fare più asparagi di te. Hai la zioetta. E ti vedevo. Allora mi sa di lega. Ambulante partenza. Porca troia, me... L'ho toccato il pulsante, sbagliato. Quello che fa? Là. Sì, sono così, ho sbagliato il pulsante, ho schiacciato il carro, cazzo. Invece di fare vedaggio ho schiacciato il carro. Ma vaffanculo. Sono le ambulanze. Ehi, e dove vedi già in giro? In giro con un amico, no. Siamo qua ancora in giro, sono a fare la benedizione. Ho capito. Ehi, allora, una bella passeggiata, bella bella. Sono anche stanco, Come sono arrivato, la prima cosa, la doccetta, mi sono cambiato, adesso sono in relax. Oh, beh, qua c'è un po' di peso, da. Beh, lo so. E dipende da dove sei. Vabbè, a casa ci sono anche i muri, invece giù sei all'aperto. Sembra così, ma i muri. E non giriamo tutti di scatole. Ma cosa? Lo so. Ma lo sai, cazzo, secondo me, guarda, questi affari qua, con una semplice antennino adeguato, con una stazione piccolina, risolvi tutti i problemi. Hanno molto raggio. Sì, è già trovato. Hanno molto. Sparano di più della 27. No, 27 è più potente, anzi. Forse viaggi, come se viaggi. Ma con poca roba qua. Sì, vabbè. Comunque con la 27 provate la anche sì, no? Ovvero, ciao a tu. Sai che ti devo lasciare. Ci sentiamo dopo. Lascia adesso tu! Ah! Ma stai andando! Ma sei a fermo da tu poco! Ma tu l'impresa è! Tu basta di trommais! Cosa hai tu? Scusa! Ciao, ben sentiti a chi è entrato, no? Mi sembra Gio Maria, stavo controllando la situazione che poi ti spiegherò. Sei copiato Gio Maria già? No, non mi sente Gio Maria. Dimmi. No, non lo sentono. A me mi sento. Già, tu lo senti a Gio Maria. Io benissimo lo sento. Ma dove si trova? No, è due passi e non ci sentiamo. Ma se non si mette l'antenna a terra, hai da ragione. Io sono in giro, sono da piccolo. Adesso lo sento Gio Maria, scusa. Lo sento anche bene. A me già mi senti? Sono qua sotto. Anche tu arrivi bene. Marchisio, due passi. Certe volte non lo sento, Marchisio. Strano, a te, attore, mi sento perfetti. Dipende anche dalla posizione. Sai dove state un po' lì? Lo sappiamo tutti, no? Sempre questa veramente fatti via dai, per carità. Luca, hai sentito? Ma sono entrato, dove le farite? Come c'è sempre. Dai, la passanza si innanda. Ma che domani sei per Ruccelli? Non credo io. Aspetta, è caduca. Ma nel bar c'è dell'Olimpica, che c'è da razzino, ne faremo qui di travagli, gatto. Sì, dove Gio Maria, andemmo, bubu, gatta. Effendi, da parati, effendi, gatto. Senti, gubichetti. Una voce si lamentava che non entravamo noi. Cattavassimo noi che ci lamentiamo che non entra. Per un po'. Ragazzi, il letargo è a mendi. Allora, dici noi non entriamo, invece tu via entra, ma. Oppure dici che non va nessuno. Baccarizzai, va. Non si può fare né calcio né pecora, è un visto. Troppo da farà due, è troppo da farà, capito, che da fare da, non hai niente. E allora, Beh, un riposito. Come vuoi dire, ma vedete dove è? Bubu. Ma stasera non è entrato, dottore. È entrato qualcuno, No, già. E c'è Maria, c'è. Ma non mi sente cosa... Strano, è stato benissimo io. No, so, c'è Maria, ma si può portarsi. Ehi, con Gomino, è dietro sono. Allora. Infatti, Maria è strano. Perché qua c'è più... Insomma, la sera me ne scendo, me ne entro qua e so più bene, capito? Ah, mamma che lo fa forte, bagasso. Capito, Giovanni? Dai, io sono qua in soggiorno. E sto cercando, sta bene. Bobo! Capito, già, con Gommino, Chi? Gio Maria, per quello non ti sente. Ah, ecco perché. Era bisogno di a me di buonimante nel terreno e grugumi. Bobo! Andiamo bene, andiamo. Ma il fatto che tu lo senti e lui a te no, strano. Infatti, sta facendo a Bobo. Anche io, benissimo. Luca! Oh? A me intende se sempre. Ah, già? A me intende? Ehi, va bene, va bene. Porta il chiasso. Signor Bacchisio. Illu. Non venno. E non mitta. Anche tu. Io lo do mi tossi. Via da te. Tore. Dormi tu sì, Tore. E tu dormi tu sì. Ci abbiamo fatto la passeggiata stasera. Ho mangiato, andato in campagna, ho trovato un po' di asparagi. Diciamo che mi sono un po' stancato. Mi adatte invece. Se vuoi qua. Stanno cominciando a uscire gli asparagi. Abbiamo trovato un mazzettino piccolo, solo piccoli. Ma io penso dal prossimo, dall'altro mese inizia a uscire. E infatti se fa così sì. Vabbè, dove ci facciamo due pennette con gli asparagi? Due mezze pennette? Due mezze pennette, chi su chi è, Battista? Andiamo, andiamo. Chi c'è avanti? Io e Tore già, ci senti? Ehi, che vi sento, dai. Tore, avanti, buonasera. Sì, buonasera, già sei tutto pimpante stasera. Ma correndosi. Bobo, che sta bimpante? No, sono con due rendi a chi praticamente ruvura, dai, mi sono preso un po' d'aria e adesso sono ardito. Ah, paghi su, L'aria ti fa argillo, ti fa. E allora, perché non vi posso raccontare cosa ho visto qua. Dai, dai. Non potremmo immaginare che c'è cane con una sugane. Non è roba di cane, no, è roba di vermi. Aia, c'era una farrende? No, non la farrende. Niente, no, non posso dirlo. L'avremmo compreso. Chi pagava? Luca va. Andiamo, bubu. A donne eri già. No. Tu non me la racconti giusta, maledetto. No, non era donna, assolutamente. Allora, è a uomini? Non penso proprio, no. Chi si lascia a te? Ah, io c'ho la donna adesso. Oh, non c'è lì, ma da uomini. E cosa c'è da poi essere bisessuale, Bucci? Provare la supposta, c'è problema. E allora, poi a furia di metterti le supposte, quando c'è la peppe, c'è preso gusto. Tu la vuoi provare la supposta, non c'è problema, dimmelo quando vuoi. Piruetto, penso che è andato. Così vostri sono, mentre uno da io. Hai dove pensa Ettore, Ettore Squalo. Non c'entro nulla io, non dice di me ne manca a me che io non ventro nulla. Io sono... sto fuori, lontano. Così è? Sì, sì, sì. Quello che hai visto te lo tieni tu, poi non lo so. Ettore, come stai ascoltando tu adesso? Benissimo, radio forte e radio buona. Sei in macchina? No, ragazzi, qua sono a casa. Ero poco fa in macchina, adesso sono a casa. E tu, Luca, come mi ascolti? Forte e chiaro. Allora, signor Bacchi, come ti stiamo? E buonasera anche lì, anche noi. Buonasera, Bacchisio. Andiamo bene, andiamo, boh. In giro eri stasera, anche tua donna eri. Quindi c'era caldo, noi siamo andati a passeggiare, a fare un po' di asparagi. Già andiamo bene, dai, avanti tu. Sì, andiamo bene, sì. Oggi si sta di ave, andiamo bene, un altro incidente, boh, boh. Dai, dai. E dove? Boh, non lo so dove sia, no, no, non l'ha detto. Fuori strada, con l'auto. Andiamo bene. Un altro coso di caccia vicino a Nuoro. Certo, bubù. Ehi, ma chi? Ora 25, avevamo fatto una passeggiata. Poi abbiamo sbagliato rientro. Strade, che è cresciuta troppo la vegetazione. Sì, sì. Ma ho seguito a lì, poi al ritorno mi sono tutto quanto un punto che sono passato in mezzo ai maccioli, per carità, va. Tutto un punto mi sono. E lì a Canica. Ma Usini? Ah, Bacchi, a Usini? Dalla parte di... cosa? Valle Doria o l'altra parte? O ancora più avanti? E... da giù compreso Isola Rossa e tutte quelle parti lì. Tu sei uscito da Castelciardo a Valle Doria a cosa? A Sedine. Sedine è tutto dall'altra parte vicino a Nuoro. Sedine è vicino a Nuoro, Si può passare dalla strada di Castelciardo, dal bivio. Però è quasi vicino a Nuoro, Sedine. Io sono cugino che sono tutto dall'altra parte. Oh Bacchino, vedo come è andato, quindi no, non ti so dire nulla. Sono passato da quelle parti ma non ci sono mai andato. Deve essere allontanato, Bacchi. Luca ci deve essere allontanato. Luca, te ne chiamato e non rispondi. E chi l'ha chiamato? Io non ho sentito nessuno. Ma chi se te aveva chiamato? Oh, l'ho sentito, Bacchi. Allora, Sedini, allora, Sedini, provincia di Sassari, provincia di Sassari, allora sono 45 km Sassari e Sedini, provincia di Sassari comunque, Albo, ma ti giova lì, buonasera di nuovo, buonasera Bacchisio, Tore, Luca, Sassari Sebo, non ho ascoltato bene, dai. Allora, buonasera signor Gio Maria, mi stia bene. Bebe, Bacchi! Io gli ho detto che coso Sedini è in provincia di Sassari e lui dice no, è in provincia di Nuoro. Ci siamo a due bassi. Non ho capito il paese. Sedini, il paese è Sedini. Fai tu quella strada di Castelsardo e arrivi a Sedini, perché adesso quando la cartina adesso guarda un po', signori, signori, nulli, andiamo ancora avanti, questo paese qui, se vede un po', sto troppo, però anche non già qua, siamo fuori di zona. Allora, c'è Terco, passiamo anche per Terco, Santa Maria di Coghina, Castelloria, Vidalba, sale ancora, arriviamo a Badesi e via dicendo. E in provincia di Sassari, di To. Siedi, è provincia di Sassari, è da poco accettando. Perché siedi, una siedi, dove l'altra siedi, siedi e c'è la caccia sardo. Otto. Non lo so, non ci sono mai andato, quindi non lo sapevo. E vabbè, pazienza, non so cosa c'è mai un beso. Non c'è appesso niente, è un bel paesetto comunque. È piccolino ma è bello, eh. Meglio così. Se la riprenda, signor Bacchi. E cosa, l'ingresso di Sedini scavata nella roccia, non è così, Giovanni, tu ci sei stato, non l'avrai vista, così è. Beh, stai dicendo un... Maestria, Giovanni, ho detto, se sei stato lì a Sedini, sei passato qualche volta. Bacca, se è andato più di una volta, te lo ricordi, sì. Chissà quante volte l'hai fatta con la strada lì. Ma stiamo parlando di asparagi, e lì è una zona di asparagi, non ci va nessuno, ci vanno solo i negri. I negri a fare asparagi e poi li dipendono sulla strada. Così è facile. Io ci vado con coso. Con Tonino, il cugino di coso, di Multivedo, e di Sedini, e sono andato con lui. Hai ragione. Infatti c'è Sedini, Bulzi, San Pietro, so cosa, l'Aero, Perfugas, siamo tutti in Santa Maria e Covina, e tutto in un gruppo di paesetti. Ettore, poco fa mi stava facendo incavolare. No, Nuoro, ma cosa Nuoro? Siamo in provincia di Sassari. Tore, un po' arretrato ancora sulla città, sulla Sardegna. Lui fa solo Sassari, Latte Dolce. Vabbè, cazzo, ti lasci il biglietto e ti lasci la gira, non ti fa manno manno me. Domenica dopo siamo a Sparaci, Tore, domenica andiamo a Sparaci, noi due. Andiamo all'aereo. E non faccio altro, non faccio altro, che andare in chivi. Aspetta, già che non mi piacciono, figuriamoci un po' che ci mi da futasciare. Ma manco poco di punture, quindi no, è bello perché quando vai in quei paesi lì è tutto un ruolo, tutto macchioni grandi di asparagi. Ti fai il giro del macchione e devi fare una borsa dell'asparagi e poi pure andare. Hai compreso, Ole? Hai attaccio compreso. E cosa vuole fare? Andemmo. Più bello così si muore, non è così siamo lì. Il pastore evidentemente. Ancora cresce ancora il pastore, pronto? Ah, boh, e cosa ne so. No, non ci sono mai andato a quella parte, quindi non lo sapevo. E vabbè, la prossima volta, vuol dire che non mi avete neanche, mi va già passare. Passa, guarda la cassa, se ricordi, se lo accoglie subito, non vedo, però è... I paesi li conosco, magari adesso qualcuno me lo dimentico, magari anche sulla strada, però lo giravo, tutta la Sardegna lo giravo, capito? E sono paesi che adesso non mi ricordo tutti i paesi col giratto, cara. Ma ci sono paesi all'interno che sono un po' difficili a trovarli, batti. Già li trovo, i sentimenti in mente di girare, li trovo e ti ricordi dove erano. No, l'unica cosa bella che c'è a Sedini è quella casa fatta in roccia, all'entrata. Ne dice che era di un riccone di Sedini. E adesso hanno fatto il museo lì, c'è il museo in quella roccia lì, sotto c'è la cantina con il museo, e sopra hanno costruito una casa. E la cantina è scavata tutta nella roccia. Certo che se lo gira. Ma adesso tutto ha cambiato, anche le strade hanno fatto strade nuove, magari. Però io si trovano, perché non è difficile usare. Poi è facile trovare un paesetto anche se all'interno, ma si trova qualche strada nuova, per cui sono tutti segnali, prima magari che segnali le trovati, o le trovare, però non c'era scritto niente per girare che non lo giravano, però adesso con satellitare vai dove vuoi vai. Adesso con satellitare arrivi a qualsiasi montessaio, basta impostare, ti porta giusto giusto. E prima c'era solo all'entrata della strada Sedini, poi magari trovavi dell'incrocio, roba varia, non riuscivi più ad andare avanti, o la strada era più lunga, adesso con le strade nuove è molto vicino. Dimmi Gianmarie, dimmi. Salta Sedini, dopo Cassessardo, dopo una roccia che sopra l'elefante. Tu guardi l'elefante così che precisamente questa roccia è. Adesso sulla sinistra andate a Sedini, sulla strada, a fianco. Andiamo dove andiamo, Ci dovrò passare lì vicino, già me la guardo. È un movimento, è da vedere, poi è bello, è bello veramente quel movimento, cazzo. È un coppe, è preciso avere fatto. Tira la bacchina. Ehi, adesso non si passa più lì, no, Giammarì, per andare a Sedini. L'elefante non si passa più. Quella strada è la strada vecchia, è troppo lunga. Adesso vai leggermente più avanti e svolti subito sulla destra. È molto più vicino. Con la strada nuova per fatto. No, da parecchi so che non ci passo ieri per danni. So che hanno fatto la strada nuova, per cui è tutta un'altra cosa. Ti giro che male là. Ci passava prima a Cassessandro, mentre adesso a Cassessandro non ci passi per andare a Sedini, capito? No, non ci passi, passi fuori. Prima di Robagno prendi la strada per Santa Teresa e via. No, è molto più vicino. Per vedere l'elefante devi fare il giro della rampa della sopravvivata e vai a vedere l'elefante da vicino. Se no lo vedi da sotto è uguale. Ehi. Adesso passa in pietra sciolta, così si chiama la strada. Ma non lo so, non mi dire il nome di strada, ma so la strada com'è, di che devi fare, boh. E non ricordo altro. Avanti. Allora vuol dire che mi farò la strada nuova. Andiamo bene. Va bene ragazzi, quanti misocciamenti. Ci sentiamo domani, se tutto va bene. Ok, ciao signori. Statemi bene, buona cena a tutti quanti. Ciao Gio Maria, ciao Bacchisio, ciao Gianni se c'è ancora e ciao Luca. Ok. Ok, ciao Tore, buona serata, saluto la signora, buona cena, buon tutto, a domani se coincide ci chiacchieriamo ancora. Buonanotte, avanti Giammarì. E anche per me è arrivata l'ora Giammarì, lo sai, l'ora del merendero arriva per tutti. Va bene, dai Giammarì, ci sentiamo domani. Saluto la signora e via che componenti. Buona cena, buon tutto, saluto anche a Gianni e a Luca, se ci sono ancora all'ascolto, ma chi vi saluta cordialmente, augurandovi ancora buon questione. Ascolto Fiorino e chiudo, ciao Giovanni, riprendi. Sì, ciao Marchisio, ciao Tore, dai. Ciao Giovanni, chiudo pure io che adesso vado a prendermi l'autobus, vado a casa, dai. A domani, ciao ciao, ciao a tutti. No, non ti preoccupare, dai, che è tutto contraccambiato, Giovanni. Ciao, grazie, ciao ciao, a domani. Sì, dai, anch'io chiuso. A domani. 1, 2, 3, prova. Prova, prova.